con Valentino dell'associazione Configno per parlare delle attività di questa struttura. Ben trovato. Salve, buonasera. Buonasera a voi. Ci racconti di questa realtà? Noi siamo una realtà che insiste sul territorio amatriciano già da metà degli anni 70, quindi siamo quasi arrivati alla terza generazione che segue questa associazione. Inizialmente come proloco strettamente legata al territorio della frazione di Amatrice Configno, poi piano piano con susseguirsi appunto delle generazioni sta diventando un'associazione anche a sostegno appunto di tutta la conca amatriciana. Ecco, quindi sicuramente un pochino prima del terremoto, poi soprattutto dopo i fatti del 24 agosto 2016, ecco, il gruppo si è un po' solidificato e ha capito che era necessario comunque sostenere in maniera più ampia le sorti di questo territorio. Quindi quello che abbiamo sempre fatto è stato organizzare degli eventi che un pochino parlassero appunto delle tradizioni, che fossero comunque legate appunto a quello che i nostri nonni, poi i nostri padri, i nostri genitori, insomma, ci hanno sempre tramandato, per l'amore per questi luoghi e il rispetto dell'ambiente che ci circonda e il mantenimento appunto delle tradizioni musicali, culturali, insomma, ecco. Da qualche anno, da prima del terremoto, abbiamo incominciato a fare degli eventi un pochino più inclusivi rispetto anche alle persone che vivono qui il territorio 365 giorni l'anno. Quest'anno siamo usciti con un mercato che ha raccolto più o meno una quindicina di realtà del territorio, produttori alimentari, da artigiani, divulgatori di cultura come poeti a braccio, insomma, ecco. Soprattutto abbiamo sentito la necessità di vivere il territorio, quindi da qualche anno qualche membro dell'associazione, me compreso, si è ritrasferito qui da Roma, perché poi comunque, ecco, c'è da dire che l'associazione è sempre stata composta da ragazzi che vivevano il territorio nel periodo estivo, quindi ecco, proprietari delle seconde case, che però piano piano, soprattutto dopo il 24 agosto 2016, hanno sentito la necessità di riprovare a vivere appunto e di evitare soprattutto lo spopolamento, che era il rischio principale. Quindi appunto il desiderio di creare una rete, una comunità, insomma, per aiutarsi, perché comunque vivere queste terre è anche una responsabilità, oltre che una grossa difficoltà, perché siamo sopra i 1000 metri, quindi è sicuramente un posto di montagna dove l'inverno comunque diviga tanto. E allora, ecco, niente, questa associazione, quello che vuole adesso, quello che sta diventando, trasformandosi in un'associazione a promozione sociale, è quello di dare una mano vera, concreta a questo territorio, ecco, con eventi di aggregazioni, quindi ricordo di quello che erano le partecipazioni di una volta, che piano stanno sparendo. Qui nella frazione di Configno abbiamo creato un museo, che sì, è un museo di arte e tradizioni popolari, dove vengono riprodotte le scuole del tempo, una riproduzione quasi reale, insomma, di una classe dell'epoca, strumenti tradizionali agricoli. Ecco, questo più o meno è quello che l'associazione Configno, piano piano evolvendosi negli anni, sta arrivando ad essere. Ci stiamo cominciando a occupare anche di alcune battaglie ambientali che purtroppo, ecco, che incominciano a essere importanti da considerare, come per esempio la costruzione di un albergo ai pantani di Accumoli, comune praticamente attaccato a quello di Amatrice, dove esistono dei laghi di era glaciale bellissimi, quindi un territorio protetto da ogni ente che si occupa di ambiente. Vogliono costruire un albergo multipiano, questo ci è sembrato una battaglia da seguire con l'associazione, fino ad arrivare al tentativo di costruzione di nuovi impianti sciistici, il PSM2, che è quello che insiste nel lato di Leonessa, insomma la parte del Terminillo dal lato nostro, diciamo, del lato di Leonessa. Ecco, questo in breve è quello di cui ci stiamo occupando in questo momento. Per saperne di più, ci lasci tutti i vostri riferimenti web? Abbiamo una pagina Facebook, che è l'Associazione Configno, e abbiamo una pagina Instagram dove potete seguire anche lì, mandiamo delle informazioni settimanali su quello che facciamo. E poi, per chiunque si voglia, insomma, mettere in contatto con noi, c'è la nostra mail, che è associazioneconfigno@gmail.com. Un saluto e un ringraziamento a Valentino. A presto! Grazie a voi, grazie a voi. Buona serata.

È un bellissimo progetto che la Biblioteca Quartizzone ha voluto dedicare ai 20 anni del Teatro di Genova. Ed è un progetto a 360 gradi, perché non si tratta solamente di vedere lo spettacolo che mi vedrà protagonista, ma di fare una riflessione vera e propria in più giorni. Inizierà il laboratorio di Fausto Paravidino sui temi del G8 e come si sono sviluppati in questi 20 anni, qual è l'eredità che quei temi ci hanno lasciato, e ci sarà una restituzione pubblica di questo laboratorio venerdì sera. Il sabato c'è il mio spettacolo, che è il G8 Studio per una tragedia, che è uno spettacolo che quest'anno abbiamo ripreso per i 20 anni del G8, uno spettacolo storico che facciamo dal 2011. Che racconta i fatti del G8 come se fossero una tragedia greca, sebbene ancora non si possa raccontare come tragedia, perché sono dei fatti ancora vivi, ci sono dei processi in corso. E poi fine chiudiamo con un incontro la domenica, che è anche un momento di approfondimento importante, proprio per fare capire che non è soltanto teatro, ma ci abbiamo Francesca De Grandis che incontra Valerio Callieri, che ci parlerà del libro È così che ci appartiene il mondo, che è un romanzo che racconta una storia vera, quella di Valerio alla caserma di Bolzaneto. Quindi sono 5 giorni in cui si discuterà del G8 a 360 gradi. Ed è un progetto importante, perché la memoria è importante, ma riuscire a fare anche una riflessione per capire che cosa è rimasto di quei temi che avrebbero potuto, ma che con la posta non hanno potuto svilupparsi dopo 20 anni, quindi dopo un'intera generazione, è il caso di tornarne a parlare. Fermiamoci sul tuo di lavoro. Come nasceva? Io sono stato a Genova, avevo 19 anni, ero molto incosciente, cioè io sono andato a Genova con la gioia di un ragazzo di 19 anni che sentiva determinate spinte, che appoggiava determinati temi, con l'inesperienza che aveva a 19 anni, sebbene appunto ero uno che frequentava i centri sociali a Palermo, a Roma. Quindi sono andato lì e invece tutto quello che erano le mie speranze sono state spezzate da tutto quello che è successo a Genova. Qualche anno dopo mi è ritornata sulla voglia di raccontare quei giorni, perché ho notato che il dibattito sul G8 di Genova, soprattutto il dibattito mainstream, era troppo falsato per quanto mi riguardava, per quelle che erano la mia esperienza. C'è stato un libro che io ho letto, che è un libro di Concetta De Gregorio, si chiama Non lavate questo sangue, che era dedicato a quello che successe alla Diaz. C'è un passaggio di quel libro che mi ha fulminato, un passaggio all'inizio di quel libro che dice: Genova, come Tebe, come Troia, è una città simbolo della tragedia moderna. Poi il libro va in tutt'altra direzione, ma per me che sono siciliano, quando tocchi la tragedia greca si apre un mondo, ce l'abbiamo nelle vene. Quindi ho cominciato a guardare al G8 a quei 3 giorni come se fosse una tragedia. E tutto combaciava. C'era un coro di 500.000 persone che è andato a Genova per le proprie istanze. C'erano 8 re che sono stati lì a discutere del mondo intero. C'è un giovane che è diventato la vittima, c'è un altro giovane che era l'antieroe, ovvero Placanica, c'è stato il messaggero che poteva raccontare tutto quello che non abbiamo potuto vedere con gli occhi, ma che ci è stato raccontato, la Diaz, Bolzaneto soprattutto. Quindi la storia di Genova combaceva perfettamente con la struttura di una tragedia greca. Ma c'era questa difficoltà, tranne Carlo, siamo ancora tutti vivi. Ne possiamo parlare con soggettività, quindi lo spettacolo vive di questo ossimoro, no? Prova a essere una tragedia, ma non ci riesce, perché ancora si tratta di cronaca. Quindi io in questo spettacolo fondamentalmente ho deciso di dividere il G8 utilizzando la struttura greca, quindi c'è un prologo che racconta tutto quello che è stato la preparazione del G8 di Genova, c'è l'ingresso del coro con tutte le stanze dei vari movimenti più importanti che arrivavano a Genova, c'è un episodio che mette in confronto i due estremi, i Black Bloc e un Celerino che li mette a confronto, c'è un messaggero che ci racconta quello che non abbiamo visto con gli occhi, ovvero Bolzaneto, c'è l'esodo, ovvero il coro di tanti uomini, donne, ragazze e ragazzi che lasciano Genova con le emozioni più atroci, più contrastanti di quei giorni lì. E questo è lo spettacolo G8 Studio di una tragedia che andrà in scena sabato sera. 20 anni dopo, che riflessioni ti senti di fare? Noi abbiamo quest'anno organizzato questo tour che si chiama Un bivio lungo 20 anni, che è il tour dello spettacolo G8 che ha toccato tutte le regioni d'Italia, abbiamo fatto almeno una replica in ogni regione. Il titolo conserva la nostra riflessione, cioè io credo che non è soltanto ricordare la ricorrenza del 20 luglio, del 21 luglio, ma io credo che lì il mondo contemporaneo come noi lo conosciamo ha preso un bivio. Lì è stato deciso, è stato imposto con la forza che direzione dare al XXI secolo, mentre c'eravamo tantissimi altri che volevamo un mondo dove i diritti fossero i diritti sociali, i diritti umani, non i diritti dell'economia a comandare su tutto il resto. Quindi è lì che si dà l'impronta al XXI secolo. Poi spesso la politica relega l'attenzione sugli episodi, cerca di minimizzare, ma io guardo a quelle che erano le istanze dei vari movimenti del G8 e oggi posso dire che mondo bello sarebbe stato se fossimo andati in quella direzione piuttosto che in quell'altra. È troppo tardi? Io spero ovviamente sempre di no, altrimenti non continuerei a fare questo spettacolo da più di 10 anni. Però è quello, cioè, si dice che in quei giorni è stata data una mazzata ai movimenti. È vero, però dopo 20 anni, visti i risultati che stiamo vedendo, forse è il caso che quei temi, che secondo me sono più forti di tutto, possono ritornare a riemergere. E per riemergere dobbiamo continuare a parlarne, perché di episodi come questi ce ne sono stati negli anni successivi e quella direzione continua a dimostrarci che non funziona. Quindi ritornare a parlare di quei temi. Qualcuno ha visto lo spettacolo questa sera e ha detto sì, è come se la loro direzione l'abbiamo provata, la direzione degli 8 grandi TG l'abbiamo provata e non sta funzionando. Forse è il caso di dire ok, abbiamo dato una chance, tra virgolette, ora via, basta, proviamo l'altra strada che forse è meglio. La rassegna 20 anni appesi al buio, G8 di Genova 2001-2021 a Roma, Teatro Biblioteca Quartittolo, dal 19 al 24 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'autore e attore Giuseppe Provinzano. A presto! Grazie, ci vediamo sabato. Ciao. Ciao. Con Tiziano Panici, direttore artistico dell'Argo Studio, per presentare Cortocircuito, prove di collaudo ad Argo Studio, una non stagione teatrale dal 21 ottobre 2021. Ben trovato. Grazie Federico, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, pronti a ripartire anche noi agli start di questo teatro contemporaneo dal vivo a Roma che sta finalmente riaprendo spazi, accoglienza, sale e in capienza al 100%, così ci è stato confermato. E quindi anche il piccolo Argo a Trastevere è pronto a riavviare con una stagione molto particolare rispetto a quelle che abbiamo sempre presentato. Una non stagione teatrale, raccontaci. È una non stagione perché, visto che comunque molti luoghi sono stati in procinto di riaprire, ma senza nessuna garanzia se sarebbe stato possibile aumentare o meno le capienze. Il nostro è uno spazio di 60 posti nel cuore di Trastevere e quindi chiaramente la gestione del pubblico sarebbe stata più difficile, e anche la programmazione, perché lo scorso anno chi ci ha seguito si ricorderà che la maggior parte delle programmazioni sono state interrotte ad ottobre, quindi c'erano ancora moltissime variabili e poche certezze. Quindi abbiamo deciso, intanto negli ultimi 2 anni dalla pandemia abbiamo riconvertito l'utilizzo dello spazio principalmente sulla produzione, quindi l'Argo è diventata una casa per le compagnie e gli autori che Argo sostiene e produce ogni anno, e questo saranno gli ingredienti principali per la nuova stagione, perché metteremo in programmazione dal vivo e in presenza spettacoli che abbiamo sviluppato, prodotto e mandato in giro per l'Italia, ma che ancora non sono invece stati presentati su Roma. E l'altra particolarità è che non abbiamo prodotto un cartellone dove appunto vengono indicate già tutte le date della stagione, ma di fatto la nostra comunicazione, che al momento è supportata da Teatron 2.0, che è uno dei nostri partner principali, verrà lanciata di mese in mese. Quindi partiamo con la prima occasione appunto per rivedere il nostro pubblico, che sarà la ripresa dello spettacolo La mia battaglia in VR, segnale d'allarme. È un progetto che avevamo già programmato a febbraio del 2020, un esperimento in realtà virtuale, quindi uno spettacolo che viene fruito totalmente attraverso l'uso di visori Oculus, ed è un progetto di Elio Germano, firmato da lui, scritto e diretto da lui, e che però viene fruito simultaneamente all'interno della sala attraverso i visori, come una proiezione cinematografica, ma in realtà si assiste ad uno spettacolo vero e proprio. Il pubblico viene lanciato all'interno di un altro spazio dove appunto Germano è protagonista e mattatore di una storia molto sui generis, legata a temi di politica e socialità. molto delicati e molto forti. È un esperimento che insomma è stato già molto apprezzato nel momento di lancio e che precederà un secondo appuntamento che arriverà nel 2022, sempre legato appunto a questa iniziativa che ha molto preso piede durante la pandemia, di sperimentare questa nuova formula di produrre teatro anche per visori in realtà virtuale. Questo è il primo appuntamento che aprirà questa nuova stagione giovedì 21 ottobre alle ore 20:30. Dal giovedì al sabato le proiezioni saranno sempre alle 20:30, la domenica alle ore 17:30. Qualche altra segnalazione? Beh, possiamo anticipare che tra gli esperimenti che abbiamo realizzato durante il periodo di lockdown, a novembre verrà recuperata anche una rassegna, in altre parole, di drammaturgia e autori internazionali, che coinvolge diversi paesi del mondo, dall'Israele agli Stati Uniti, alla Spagna, e che appunto viene realizzata in collaborazione con gli istituti di cultura e con le università dei diversi paesi coinvolti. E abbiamo fatto questo esperimento durante la pandemia, lanciando l'evento in streaming e trasmettendo i diversi episodi della rassegna attraverso i nostri canali social, e questo è stato molto apprezzato perché ovviamente i paesi stranieri che non possono partecipare in presenza agli eventi hanno potuto ovviamente seguire tutto il cartellone della rassegna e anche appunto collegarsi per talk e convegni che erano legati alla manifestazione. Quindi la differenza è che gli spettacoli stavolta saranno fruibili dal pubblico in presenza, ma ovviamente manterremo la possibilità di poter trasmettere anche attraverso i nostri canali social gli eventi in live streaming, quindi con la possibilità di assistere agli spettacoli, alle letture, ai talk in programma anche a distanza. Questo avverrà inizio novembre, appunto non abbiamo ancora comunicato le date perché, come anticipato, andremo praticamente di volta in volta. Ecco, quindi la programmazione sarà mensile, più o meno come vi state orientando in questa prima parte di stagione, mensilmente quanti appuntamenti ci sono all'incirca? Saranno circa 3 appuntamenti al mese. Posso anticipare che oltre alla rassegna che ho appena nominato è in programma un altro evento dal vivo a novembre che vedrà coinvolto invece stavolta Francesco Frangipane, che è il co-direttore del Teatro Argo Studio e soprattutto di Argo Produzioni, che presenterà uno spettacolo con protagonista Luigi Di Berti, uno degli attori insomma più importanti della sua generazione, che ha presentato questo testo originale contemporaneo in anteprima al Festival di Todi quest'estate. È un testo che parla dell'inventore Elio Trenta, uno dei grandi inventori italiani, come al solito relegati un pochino alla memoria della storia, e che sarà accompagnato con musica dal vivo. Aprirà questo progetto per un tempo abbastanza limitato, tendenzialmente programmeremo sempre anche gli spettacoli dal giovedì alla domenica, e farà parte degli appuntamenti di novembre. Su dicembre, idem, avremo una nuova proiezione in VR e un altro spettacolo dal vivo in programmazione, quindi la media mensile sarà di circa 2 o 3 eventi distribuiti chiaramente lungo il mese. Ci dai tutti i riferimenti web? teatroargostudio.com è il nostro sito, ma chiaramente l'Argo Studio lo trovate anche su Facebook e su Instagram, dove fra l'altro sarà possibile acquistare i biglietti online, prenotarsi e anche fare la tessera. Ci siamo già durante la pandemia attrezzati abbastanza bene per riuscire ad ottimizzare anche i tempi di accesso, che come sapete appunto con le precauzioni Covid sono sempre un po' scomodi, quindi tra mostrare Green Pass, che sarà ovviamente obbligatorio, registrare la tessera, che da questo quest'anno sarà gratuita per tutti gli spettatori, e all'acquisto del biglietto si potrà procedere attraverso i nostri canali acquistando tutto prima. Il resto della settimana, rispetto ai giorni che ho indicato, l'Argo torna a essere anche un laboratorio per appunto crescere nuove generazioni di attori, autori e registi, quindi se andate sul nostro sito troverete anche la nostra programmazione di workshop e laboratori, più le occasioni annuali di formazione dedicate a chi in qualche modo vuole incontrare il palcoscenico anche per la prima volta nella sua vita, come ad esempio attraverso il laboratorio degli Zappattori, che è nato all'interno dell'ex cinema America Occupato, poi si è trasferito all'interno dell'Argo e ormai è un laboratorio di casa dedicato a tutte le età, ma in particolar modo ai giovani, adolescenti e universitari, che è in programma di solito la domenica sera, e tutti i riferimenti appunto li trovate sempre sul nostro sito www.teatroargostudio.com. La non stagione teatrale cortocircuito prove di collaudo ad Argo Studio. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Tiziano Panici. A presto! Grazie mille Federico, a presto, e non vediamo l'ora di rivedervi in presenza finalmente dal vivo. con Vladimir Luxuri, attrice dello spettacolo Discarica di Silvano Spada, a Roma, Off of Theater, dal 23 al 31 ottobre 2021. Ben trovata! Salve! Cos'è questo lavoro? È una discarica vera e propria. È una discarica sia fisica, perché appunto è un luogo dove vengono accumulati i rifiuti, ma è anche un luogo metaforico, simbolico, perché è il luogo in cui le persone scomode, le persone borderline, cosiddetti emarginati, appunto vengono portati ai margini della città e scaricati in questa discarica. Ci sono io, che sono Fanny, e sono una trans che dice che i miei insuccessi sono l'unico bagaglio che ho. Sono una trans fallita, una trans che non ha neanche i soldi per pagarsi l'affitto e quindi deve lasciare casa per andare a vivere in una discarica, insieme ad Andrea, un ex manager che è licenziato e che diventa un clochard, insieme a una coppia di ragazzi, Valeria e Marco, che sono ragazzi tossicodipendenti legati da un amore tossico, e poi una che chiamiamo la contessina, che è una donna che ha un disagio mentale. Ma in tutto questo si scoprirà una grandissima umanità in questa famiglia che vive in questa discarica, e si scoprirà che l'odio, il marcio, non è dentro la discarica, ma è dentro quella società borghese che si crede normale, che a un certo punto, solo per divertirsi, decideranno di entrare in questa discarica per massacrare di botte questa comunità. Come nasce questo lavoro? Nel 2008, scritto appunto da Silvano Spada, venne presentato in anteprima al Festival di Todi, dove ebbe un grande successo. Ricordo ancora con emozione di aver avuto in prima fila la grande Franca Valeri, che mi applaudiva, Maurizio Costanzo, la famiglia Trussardi. E da allora poi non si è più fatto, perché la mia vita ha preso altre strade, ma quando Silvano Spada mi ha detto che voleva rimetterlo in scena, l'ho trovato oggi quasi più attuale rispetto al 2008, e quindi ho accettato di farlo, anche perché secondo me questo è un momento in cui dobbiamo ritornare tutti a teatro, sia su un palco per chi fa un lavoro come il mio, sia come spettatore, perché il teatro ha sofferto per troppo tempo. Come avevate pensato e lavorato alla messa in scena? Il regista Silvano Spada è una persona straordinaria, perché prima di dare indicazioni lui cerca di vedere noi come interpretiamo, quindi c'è un clima molto disteso. Lui vuole la verità, vuole l'umanità soprattutto, perché questi personaggi, nonostante siano appunto considerati dei rifiuti umani, sia nel linguaggio, il linguaggio è molto forbito e poetico, sia nei loro movimenti hanno una grandissima nobiltà. Com'è andato finora nelle rappresentazioni che avete messo in campo? È andato benissimo e io credo che il pubblico si emozionerà tantissimo a vedere questo spettacolo, perché poi ognuno penserà a delle persone, magari anche quelle persone che si incontrano di giorno e che noi voltiamo la testa dall'altra parte, scopriranno anche quanta profondità umana c'è in queste persone, il percorso di vita, cosa li ha portati ad arrivare in una discarica. Quindi credo che sia uno spettacolo che farà quello che poi fa il grande teatro, secondo me, cioè quello di emozionare, di far capire. Cosa avevi apprezzato quando ti sei avvicinata al progetto? Beh, il testo. Io sono una che ovviamente prima vuole leggere il testo, mi è molto piaciuto. E poi perché io da trans, uso tutte le virgolette possibili e immaginabili, da trans diciamo di successo, cioè nel senso che io sono una che ce l'ha fatta, però io ricordo quante amiche mie ho perso strada facendo, per cui io spero di non emozionarmi, interpretando Fanny come se gli dessi vita a tante trans che ho perso strada facendo, perché si sono suicidate o perché hanno cominciato a drogarsi, a lasciarsi andare. Quindi per me fare Fanny significa ridare vita, dignità, memoria a tante trans buttate davvero in una discarica. Lo spettacolo Discarica di Silvano Spada all'Off of Theater a Roma dal 23 al 31 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento all'attrice Vladimir Luxuria. A presto! Grazie! con Carla Ceravolo, direttrice artistica del Festival di Drammaturgia Contemporanea Out Out a Roma, Teatro di Documenti, dal 2 al 24 ottobre 2021. Ben trovata! Ben trovato, grazie di avermi chiamato. Ce ne parli? Nasce un po' dal desiderio di uscire da questa lunga separazione dal mondo e per ritrovarsi con molte compagnie in un percorso che andrà in scena tutte le sere al Teatro dei Documenti. Vogliamo ripartire dalla parola, il nucleo di base di fare teatro, per ricominciare. Sono 5 autori, Dacia Maraini, Henri De Luca, Massimo Sgorbani, un under 35, Maria Teresa Berardelli e un autore argentino, Jorge Palant. Di ogni autore noi presentiamo uno spettacolo e un reading e una conversazione o presentazione con un giornalista o critico letterario, perché vogliamo dare spazio anche a questa figura che è molto importante perché dà una visione di quello che l'autore fa e che con l'andare del tempo è venuta affievolendosi semplicemente perché sui giornali è stata tolta sempre di più spazio alla pagina culturale, quindi sempre meno possibilità di avere questa comunicazione con il pubblico tramite una ulteriore penna che scriva sull'autore, sullo spettacolo. Drammaturgia contemporanea perché vogliamo essere presenti adesso, perché le stanze sono quelle delle persone che stanno vivendo in questo momento e vogliamo che il teatro se ne faccia carico, le rappresenti, abbia un dialogo con gli spettatori che verranno, che rifletta sul suo presente. Com'è stata la scelta di questi autori? Noi abbiamo scelto 2 autori che in verità sono molto più conosciuti come letterati, come romanzieri, novellieri, saggisti, piuttosto che come drammaturghi. Quindi abbiamo voluto da una parte mostrare una sfaccettatura meno conosciuta di questi autori e mi riferisco a Dacia Maraini che comunque ha un portato teatrale notevole, ma forse più all'inizio, negli anni 60, 70, 80, ecco, che adesso è più affermata come scrittrice. E Henri De Luca che in realtà non ha scritto tantissimo per il teatro, però ha scritto delle cose molto belle. Poi abbiamo fatto una scelta giovane, volevamo assolutamente una rappresentanza under 35 che peraltro verrà presentata da una giornalista critica teatrale, anche lei under 35 e verrà messa in scena da 2 compagnie, entrambe per la maggior parte under 35. Poi abbiamo Massimo Sgorbani che è un autore molto sorprendente e molto toccante per come espone le storie, sono al limite del paradossale eppure le sentiamo vere. E poi Jorge Palant è un autore argentino che noi abbiamo già conosciuto e ospitato a teatro e quindi volevamo una presenza anche di una realtà lontana. Le compagnie sono varie, per Jorge Palant siamo noi come Teatro dei Documenti che lo mettiamo in scena, uno spettacolo è Judith con la regia di Anna Ceravolo e il reading è Le Visite con la regia di Donatella May. Per Massimo Sgorbani abbiamo uno spettacolo che ha dell'incredibile, si chiama Angelo della Gravità con la regia e l'interpretazione di Roberto D'Alessandro, ispirato a una storia vera, alla storia di un uomo che sta aspettando di essere ucciso mediante impiccagione in un carcere americano, ma bisogna aspettare prima di poterlo uccidere perché è troppo grasso e la corda non reggerebbe. Ed è una storia vera, per cui è grottesco, sono proprio queste situazioni al limite del paradossale. Il reading è Nell'ardore della nostra camera, la regia e l'interpretazione è di Nadia Brustolon, un'attrice estremamente sensibile e toccante, e anche questa è una storia abbastanza grottesca, ma poi non così inverosimile, e anzi direi abbastanza attuale. Poi abbiamo Harry De Luca, abbiamo uno spettacolo In nome della madre, con la regia di Gianluca Barbadori e la straordinaria interpretazione di Galatea Ranzi. Io ho già visto questo spettacolo perché ho fatto le prove proprio qui al Teatro dei Documenti, spettacolo prodotto dal Teatro Biondo di Palermo, sarà in scena un'unica volta ed è la storia di Maria, una storia molto toccante che è vista con gli occhi dell'autore, sarà una notevole prova d'attrice. Poi abbiamo sempre di De Luca, L'ultimo viaggio di Sinbad, in forma di reading, con la regia di Francesco Polizzi, che lo interpreterà anche assieme a una cantante musicista. Questo racconto si ispira alle novelle delle Mille e una Notte, ma questa volta questo Sinbad è un trasportatore di uomini nello stretto del Mediterraneo. L'altro autrice è Maria Teresa Berardelli, rappresentiamo Alba, che è un testo messo in scena da Paolo Orlandelli con due giovani attori e parla di un rapporto di coppia, anche questo visto dai giovani. Abbiamo Il paziente A, storia di un'analisi, invece sarà il reading che Fucina Zero, questa compagnia giovane, molto interessante, metterà in scena in forma di reading. Fucina Zero è stata una compagnia che noi abbiamo ospitato qualche anno fa e è stato molto interessante in questo caso chiedere a loro di cimentarsi su questo testo e porgerlo qui al Teatro dei Documenti. Poi abbiamo Dacia Maraini con lo spettacolo Per Giulia, con la regia di Yolanda Salvato, che è uno spettacolo che è già andato in scena qui al Teatro dei Documenti e ricorda il terremoto dell'Aquila, in omaggio a una giovane Giulia, infatti, che è morta quando è crollato l'edificio studentesco. È una storia molto toccante che stimola il pubblico alla fine a intervenire con anche le testimonianze di quel momento. E il reading invece sarà Mela, messo in scena da Stefania Porrino con Evelina Nazzari e Nunzia Greco. E questo dramma diventerà poi un libro che è Storia di tre donne, sempre della Maraini. Il testo è degli anni Ottanta e poi la Maraini ha fatto questo romanzo, da quello spunto è diventato un romanzo. Assieme a questi testi, spettacoli e reading, viene proposto anche un altro spettacolo, Il Mite Inferno, che è uno spettacolo scritto da Anna Ceravolo e si vuole rapportare alla peculiarità del Teatro di Documenti, per cui diventa un viaggio narrazione all'interno del teatro, dove il pubblico si sposta in tutte le sale del teatro condotti da questo narratore. È uno spettacolo che ha avuto il riconoscimento del comitato in onore di Dante Alighieri dei 700 anni dalla sua morte e ci interessava inserirlo in questo contesto perché il Teatro di Documenti di per sé provoca una nuova drammaturgia, se si vuole confrontare con questo spazio. Non solo, questi spettacoli saranno messi in scena ognuno negli spazi differenti del Teatro di Documenti, secondo quello che il regista, la compagnia riterrà più opportuno. Ecco, quindi saranno tanti palcoscenici e, come accade al Teatro dei Documenti, bisognerà anche pensare allo spazio del pubblico, perché non è definito. Quindi c'è un po' questo tentativo di riflettere sulla drammaturgia d'autore, sulla drammaturgia della parola e sulla drammaturgia dello spazio in simbiosi. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per informazioni e approfondimenti? Il nostro sito è www.teatrodidocumenti.it. La mail è teatrodidocumenti@libero.it. E poi un numero unico di prenotazioni e informazioni 328-8475-891. Out Out, festival di drammaturgia contemporanea a Roma, teatro di documenti dal 2 al 24 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Carla Ceravolo. A presto! Grazie, grazie, a presto, vi aspetto! Con Ariele Vincenti, coautore e attore dello spettacolo La Tovaglia di Trilusta a Roma, Teatro Vittoria, dal 12 al 24 ottobre 2021. Ben trovato! Sì, ciao, ciao Federico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Raccontaci di questo nuovo lavoro. Nasce naturalmente durante il primo lockdown, insieme col coautore Manfredi Rutelli abbiamo cominciato, diciamo, a studiare un po' prima la poetica di Trilusta, quindi io mi sono letto più di 1000 poesie di questo poeta straordinario, e poi una cosa diciamo che ho scoperto, una cosa che mi ha ancora più incuriosita, è tutta la sua vita stupenda che ha fatto, una vita molto avventurosa. Unendo le due cose, quindi un po' la sua vita, un po' la poetica, abbiamo scritto questo testo che si chiama La Tovaglia di Trilusta. Perché? Perché in vecchiaia, dopo la guerra, lui non aveva soldi, però non rinunciava alle sue amate cene in osteria. Infatti lo spettacolo è ambientato in un'antica osteria romana. E non avendo soldi, che faceva? Scriveva dei versi sulla tovaglia di carta, la strappava e gliela dava all'oste, pagava così. E quindi questo è stato uno dei tanti aneddoti che mi ha colpito della sua vita, e da questo siamo partiti con Manfredi per scrivere poi tutto lo spettacolo. Uno spettacolo che racconta, appunto, oltre alla poetica, la sua vita, anche la Roma di un tempo, l'atmosfera delle osterie, quando si parlava di sfilatini burralici, quartini di vino, quintini di vino, un po', insomma, ci racconta la Roma di fine Ottocento, che secondo me è stata la Roma più bella. Era la Roma della Belle Époque, una Roma viva, in cui la vita si svolgeva solo all'interno del centro storico. In quegli anni 400.000 abitanti Roma faceva. Era una Roma dove c'era anche tanta fame, ma tanta solidarietà tra le persone. In un periodo in cui il tasso di analfabetismo era del 75% in Italia, Trilusta è riuscito comunque a vivere solo di scrittura, di poesie e di favole, eccetera. Un'altra cosa bella di Trilusta che ho scoperto, importante, che non sapevo, è stato uno dei pochi poeti della storia che è riuscito a vivere della sua scrittura, senza fare altri lavori, senza altri guadagni. Pensiamo a Pirandello, ad esempio, era un professore, Ungaretti era un professore, Belli era un impiegato del catasto. Invece Trilusta è stato uno dei pochi poeti che, appunto, è riuscito a sopravvivere solo attraverso la sua arte. Questi, ma tanti altri aneddoti, insomma, anche un'altra cosa che ho scoperto e che non tutti sanno, che Trilusta era amato e stimato dai più grandi intellettuali dell'epoca, Giovanni Pascoli, D'Annunzio, Pirandello, Elsa Morante. Ad esempio Elsa Morante, ho scoperto questa cosa, giovanissima, andava a bussare al suo portone per fargli leggere le sue prime cose. Oppure Edoardo De Filippo anche. Edoardo aveva cominciato a tradurre le poesie di Trilusta in napoletano. Poi non so che fine hanno fatto, se poi sono state mai realmente tradotte da lui. Però questo per dire che molti pensano che Trilusta sia un poeta un po' di serie B, no? Legato ai sonetti, animali, eccetera. In realtà Trilusta è stato un grande poeta, un grande letterato, con una grandissima cultura, soprattutto. Aveva 2500 libri dentro casa. Cosa hai apprezzato maggiormente della sua scrittura? Sicuramente due cose: la sua sensibilità e il suo essere universale. Ogni sua poesia è attuale oggi più che allora. E la sensibilità di approfondire determinati aspetti dell'animo umano, che era data appunto dal fatto che lui stava sempre in mezzo al popolo. Era un poeta che frequentava anche i salotti borghesi, però la sera se ne andava nelle osterie, stava a contatto con il popolo. E secondo me un artista deve fare questo, deve stare in mezzo alle persone, deve parlare con le persone per poi poterle raccontare. E Trilusta faceva proprio questo. Stava magari, non lo so, ospite dalla regina Margherita, ma poi se ne andava per le diette popolari a ubriacarsi insieme ai sgherli di turno e magari a improvvisare rime sui tavolini presi dai fumi del vino, insomma, perché era un grande amante del vino. Ariele, come avete pensato la messa in scena? un duplice binario di narrazione, insomma, da un lato ci sono io che racconto appunto tutta la sua vita, recitando anche tantissime sue poesie, quelle che ho ritenuto più giuste e più funzionali alla drammaturgia teatrale, e l'altro binario invece si svolge tutto in quest'osteria negli anni 50, in cui un mio nonno immaginario che faceva il custode allo zoo racconta di questa cena che ha fatto con Trilussa, quindi lui ormai vecchio, fine anni 40, perché poi Trilussa è morto nel 50, e quindi è come se Trilussa in qualche modo raccontasse a questo giovane mio nonno tutta la sua vita, la sua poetica, e cronologicamente raccontiamo anche quello che succedeva in Italia, quindi dall'Italia umbertina, l'età giulittiana, fino al suo rapporto col fascismo, l'avvento della guerra, e poi ecco, si accenna al dopoguerra, ma poi da lì a poco, come Trilussa è morto, raccontiamo un po' anche una fotografia di quella che è stata la storia italiana di quegli anni, attraverso la sua poesia. Come era nato il progetto, visto che insomma Trilussa è stato frequentato spesso e volentieri? Io sono sempre stato amante della poesia romanesca, ho fatto tante serate anche con Emilio Stella, no? Che tu conosci bene, facciamo ancora oggi tante serate di poesia romanesca di vari autori romani. Ho deciso di fare una cosa su Trilussa perché ritengo il poeta romanesco più completo a 360 gradi, perché innanzitutto usa un linguaggio più universale, quindi non usa un dialetto ottocentesco che era quello del Belli, altro straordinario poeta. È un po' più immediato, più moderno lo trovo Trilussa rispetto al Belli e rispetto a tanti altri poeti. E poi il fatto che lui era uno del popolo, a me mi ha sempre incuriosito questo suo aspetto, e quindi aveva una sensibilità maggiore, infatti leggendo tante sue poesie e anche recitandole, molte sono comiche divertenti come sappiamo tutti, però ci sono delle poesie molto malinconiche e emozionanti che ti lasciano proprio col fiato sospeso, e quindi abbiamo voluto fare un omaggio a questo poeta non conosciuto a sufficienza soprattutto dai romani, ma molti lo conoscono così in modo molto superficiale, invece noi abbiamo voluto ridare un giusto tributo a questo poeta, insomma, Carlo Alberto Salustri. La tovaglia di Trilussa a Roma al Teatro Vittoria dal 12 al 24 ottobre 2021, un saluto e un ringraziamento al coautore e attore Ariele Vincenti. A presto! Grazie a voi. Volevo dire l'ultima cosa, Federico, sì, che per gli ascoltatori di Radio Onda Rossa ci sarà un biglietto ridotto di 15 euro anziché 30 in platea, telefonando allo 06 57 40 170, con prenotazione obbligatoria per le norme anti-Covid. Quindi ci vediamo a teatro, Federico, anche a te ti aspetto, e un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Un abbraccio, a presto. Grazie, ciao, ciao, ciao. Con Lune Magrini di Marte Live per presentare la quinta edizione del Festival Suggestiva, musica pura per luoghi straordinari. A Roma, Parco Archeologico Appia Antica, dal 15 al 24 ottobre 2021. Ben trovata! Ciao, ben trovato, ben trovati. Parliamone a chi non lo conoscesse. Cos'è? Suggestiva è un festival che va in viaggio per l'Italia a raccontare dei luoghi straordinari, per cui in ogni edizione del festival portiamo degli artisti, dei musicisti, degli storici, anche gli operatori che lavorano con i bambini, un sacco di gente a esprimere l'essenza di un luogo e raccontarla a chi partecipa. E quindi siamo stati ovunque, siamo stati su rocche in cima alla montagna, dentro a grotte e cunicoli sotterranei, in città abbandonate e in siti archeologici, appunto con Suggestiva e con tantissimi artisti straordinari. Come si articolerà questa quinta edizione? Saremo nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, che è un posto bellissimo in cui siamo già stati l'anno scorso e in cui continueremo poi con il progetto a rimanere a proporre concerti. I concerti si svolgono proprio dentro al ninfeo della Villa dei Quintili, per cui all'interno del sito archeologico, in uno spazio pazzesco e appunto altamente suggestivo, ci saranno concerti dal pomeriggio alla sera, visite guidate alla scoperta del parco archeologico e visite guidate con gioco per bambini. Siamo in attesa, insomma, veramente mancano pochissimi giorni di aprire questo festival e ci aspettiamo veramente un gran ritorno, perché è la prima volta dopo 2 anni che con Suggestiva torniamo in presenza con il pubblico. E quindi l'ultima edizione è stata in streaming primavera scorsa, e certo noi lavoriamo su dei prodotti video per raccontare questi luoghi, raccontare questa suggestione, diffondere insomma che cosa vuol dire andare a vivere un luogo straordinario in un modo diverso. Certo è che però tornare col pubblico è tutta un'altra storia. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Siamo su Facebook con Suggestiva Musica Pura per Luoghi Straordinari. Il sito è suggestiva.eu, è praticamente già sold out, ma appunto con il fantastico momento delle capienze abbiamo riaperto la biglietteria. Il Camontigre mi sembra che siano già sold out, sono rimasti veramente una manciata di biglietti. Apriamo con i Camontigre, collettivo torinese multiculturale, fanno questa bellissima fusione insomma di musiche del mondo con un po' di elettronica. Musica del mondo ed elettronica la ritroviamo come contaminazione in diversi appuntamenti. Abbiamo anche DJ Calab che viene in trio con la sua band. Abbiamo Erika Piccotti e Gianmarco Ciampa che faranno un omaggio ad Astor Piazzolla. Piccotti e Ciampa sono un duo violoncello e chitarra molto conosciuti nell'ambito della musica classica. Poi ci saranno gli On, che è la formazione sperimentale composta da Riccardo Sinigallia, Ice One e Adriano Viterbini. Per andare più sullo sperimentale ci saranno Renato Fiorito e Antonio Raia, sassofono ed elettronica con musica ambient molto onirica. Poi Giampace, che è il nuovo progetto di Godugong, del producer Godugong, che ha fatto una bellissima sperimentazione in questi ultimi anni e durante il lockdown con microdosaggi di sostanze allucinogene e ha tirato fuori un album allucinogeno, e quindi insomma la musica che ha prodotto ce la presenta in questo nuovo formato di Giampace. C'è il chitarrista Paolo Spaccamonti, c'è Nicolò Grassi che è un primo violino di un'orchestra molto bella che è la Corelli, c'è Matteo Dinca con un progetto creato ad hoc per Suggestiva che si chiama Una relazione aliena, in cui racconta la visione di un'equipa aliena che viene sulla Terra a studiare gli uomini. Abbiamo l'organetto elettronico di Alessandro D'Alessandro, quindi appunto la fusione tra organetto ed elettronica, per cui vedi c'è una varietà di generi anche, no, in questo festival, perché non è che ci siamo focalizzati sul appunto la classica, l'ambient, quelli che sono considerati magari i generi d'atmosfera, ma in realtà quello che vogliamo comunicare è proprio che qualunque genere musicale può suscitare questo tipo di emozione, di sensazione, di stupore e di suggestione che vogliamo trasmettere, che ci permette di entrare in sintonia con il luogo, no? Di viverlo profondamente. Quinta edizione del Festival Suggestiva, musica pura per luoghi straordinari, a Roma, Parco Archeologico Appia Antica, dal 15 al 24 ottobre 2021. Un saluto e un ringraziamento a Lune Magrini di Marte Live. A presto! Ciao, grazie, a presto! Con Simone Nebbia di Teatro e Critica per l'agenda della settimana. Ciao Simone. Ciao a tutti, buon pomeriggio. Settimana intensa, ogni volta che insomma apriamo il calendario, e c'è nel calendario di questi mesi Romeo Europa Festival, a Roma è comunque sempre una città molto viva, o almeno così sembra, dall'illusione di esserlo, perché durante i mesi di Romeo Europa ci sono tante cose che poi pian piano un po' vanno a scomparire, ai noi. E allora andiamo un po' a vedere cosa c'è durante questa settimana, sempre che io riesca, ecco, avevo fatto un errore, ok, perché sai, quando ci si dimentica di un teatro, poi quel teatro potrebbe arrabbiarsi. E allora andiamo a vedere che cosa c'è anche qui, ma non vi dico quale ho dimenticato. Allora, per ciò che riguarda il teatro Carrozzerie Notte, partirei da qui. questa settimana, perché 23 e 24 ottobre Irene Russolillo, stiamo parlando di danza, presenta Dove è più profondo, estratti e riflessioni, un dispositivo scenico fatto di corporeità, suono e immagini, ed è esito di un processo creativo in cui alcuni cantanti, cantori, insomma, di oralità tradizionale sono invitati a condividere il patrimonio musicale e culturale. Questo è il processo condiviso tra gli artisti e i cittadini coinvolti come punto di partenza di questo processo creativo, che Irene Russolillo raccoglie e presenta in scena il 23 e 24 ottobre al Teatro delle Carrozzerie Not. Vado a ricordare una cosa: per chiunque avesse acquistato i biglietti per Echo Chamber, lo spettacolo in scena al Teatro Vascello, dal 19 al 24, in realtà lo spettacolo non ci sarà. Non è dato sapere perché, il spettacolo con la regia di Leonardo Manzan avrebbe dovuto essere in scena al Teatro Vascello, ma non ci sarà, quindi per rimborsi vari, perché ha acquistato il biglietto, da chiedere direttamente al teatro. Andiamo anche all'Ambra Iovinelli, dove la stagione è ricominciata, e da questa sera va in scena uno spettacolo dedicato al tennis, precisamente a Roger Federer. Lo spettacolo si chiama Roger, è una commedia, è diretta e scritta da Umberto Marino, ambientata direttamente su un campo da tennis, e con in scena Emilio Solfrizzi, una sorta di tragicomica partita tra un numero 2, una sorta di Wertheimer, per citare il fortunato libro Il soccombente di Thomas Bernard, che non riusciva ad arrivare al grande talento di Glenn Gould. Quindi questa partita tra il numero 2, un po' tragicomico appunto, e questo inarrivabile numero 1 del tennis di sempre, ovvero sia Roger Federer. Quindi Teatro Ambra Iovinelli da questa sera 19 ottobre con Roger. Andiamo anche al Teatro Basilica, dove andremo a vedere La regola dei giochi, 21-24 ottobre. Anton Giulio Calenda presenta questi 5 atti unici, con appunto la sua drammaturgia e la regia di Alessandro Di Murro. Sono appunto 5 opere caratterizzate dalla ferocia e dalla concisione dei dialoghi. Questa è la produzione appunto firmata dal Gruppo della Creta, e i titoli sono Ucronia o Va tutto bene, Soldato, Il regno, Matteo, e Squali, uno studio marino. Sono in scena per una settimana al mese, e questa diciamo intanto la settimana di ottobre, per un format insomma di stabilità all'interno di un teatro come il Teatro Basilica, però appunto una sorta di stabilità ricorsiva, cioè una messa in scena che più che replicare per un periodo, replica per più periodi a distanza di un po' di tempo. Quindi interessante l'esperimento del Teatro Basilica, 21-24 ottobre, per La regola dei giochi di Anton Giulio Calenda. Per ciò che riguarda invece il Teatro Biblioteca Quarticciolo, 19, quindi da stasera fino al 24 ottobre, c'è la settimana dedicata ai 20 anni appesi al buio, il G8 di Genova 2001-2021. Cosa non si può non dire sui 20 anni successivi al G8 del 2001? Questo il pensiero che porta al laboratorio davvero interessante e importante, poi la conferenza spettacolo del 22 ottobre, curati da Fausto Paravidino. Il 23 di ottobre ci sarà G8 Studio per una tragedia con Giuseppe Provinzano, uno spettacolo nato proprio negli anni successivi, e che è il caso di tornare a vedere, sta rigirando quest'anno proprio in occasione di questo anniversario. Mentre invece il 24 ottobre alle ore 17 per TBQ Letteratura 2000 Francesca De Santis incontra Valerio Callieri, che è autore di È così che ci appartiene il mondo, libro che se non sbaglio è uscito per Feltrinelli, insomma, che racconta una storia vera, quella di quando l'autore, appunto Valerio Callieri, viene arrestato e rinchiuso nella caserma di Bolzaneto il 21 luglio 2001, quindi inevitabile il riferimento. Ma faccio seguito anche di un altro appuntamento a seguire dopo la presentazione del libro, sempre il 24 ottobre, ma alle ore 18.30, la proiezione di Solo Limoni, la documentazione video poetica del G8 di Genova ad opera dell'artista Giacomo Verde, che è anche scomparso da pochi mesi, se non vado errato. E per ciò che riguarda il Re Bibbia Festival, torna il Re Bibbia Festival e sarà fino al 20 dicembre presso il carcere di Re Bibbia, quindi insomma per andare a vedere teatro, cinema, audiovisivo, rassegne, workshop dedicati appunto all'arte e al percorso di riscatto dei detenuti attraverso l'arte e la cultura, assolutamente da non perdere fino al 20 dicembre questo lavoro ospitato nel grande auditorium del carcere e nella sala cinema Enrico Maria Salerno, quindi mettersi in contatto con il carcere di Re Bibbia per ciò che riguarda la presenza a questo festival. Per quanto riguarda invece, andiamo a vedere il Teatro Argo Studio, dove dal 21 ottobre va in scena La mia battaglia in virtual reality, e lo spettacolo con Elio Germano, che lo dirige insieme a Omar Rashid, sulla grande seduzione che il male, che i fascismi del contemporaneo stanno attuando, in realtà il fascismo di ogni tempo attua sulla popolazione, su chi fruisce, diciamo, l'esercizio del potere. Io lo vidi in una versione, diciamo, normale, in scena, al Teatro Ambro Iovinelli. Questa è una versione in virtual reality, quindi credo molto interessante andare a vedere come quello spettacolo è stato poi declinato in quest'altra forma, una sorta di film in realtà virtuale. L'opera teatrale di Elio Germano era scritta da Chiara Lagani, che è la drammaturga di la compagnia Fanny e Alexander, lo ricordiamo. Quindi dal 21 ottobre al Teatro Argo Studio. E che cos'altro dire? Dire innanzitutto che al Teatro Tordinona, da stasera fino al 24 ottobre, da I Fratelli Karamazov, Il Grande Inquisitore, diretto da Marinella Anaclerio, interpretato da Tony Marzolla e Flavio Albanese, questo classico di Dostoevskij che viene adattato per la scena già nel 2010 e viene ripreso oggi e vede protagonisti due fratelli, un aspirante scrittore ed un aspirante monaco, quindi due posizioni opposte nel vivere la vita. Lo andremo a vedere al Teatro Tordinona 19-24 ottobre. Ci resta da ragionare sul Teatro di Roma, dove questa settimana, oltre alle repliche di Avremo ancora l'occasione di ballare insieme di Dario De Floriani e Antonio Tagliarini, fino al 24 ottobre al Teatro Argentina, nella sala Oceano Indiano del Teatro India torna Club Taiga di Industria Indipendente, dal 20 al 24 di ottobre. Si tratta di un lavoro destinato alla controcultura, all'unione tra simili come luoghi dei mostri e dei fantasmi. Un club è solitamente qualcosa di buio, si usano messaggi cifrati, ci sono regole proprie oppure non ci sono regole, e i corpi si possono esprimere in altre modalità e comportamenti, traballano i pensieri, sbarellano, cambiano pelle. Quindi Club Taiga è un lavoro è un luogo nascosto, scuro, e all'interno vive un organismo che è un corpo unico fatto di più corpi, e questo più o meno quello che Industria Indipendente vuole dire rispetto al nostro mondo contemporaneo, per cercare di individuare, insomma, di cosa si tratta l'essere al mondo oggi, l'essere in questo nostro contemporaneo. Quindi 20-24 ottobre Teatro India. E non ci resta che parlare di Roma Europa Festival, perché questa settimana andremo a vedere più di un lavoro. Da questa sera fino al 22 ottobre Alice Ripoll con Lava Jam al Teatro India, è una coreografa e performer brasiliana che coinvolge danzatori da tutto il paese, quindi molti dei quali che provengono dalle favelas di Rio o di San Paolo, e con loro ha creato questa compagnia, appunto, e poi questo spettacolo, appunto, Lava Jam. Tra realtà e fantasia, questa performance conduce lo spettatore in una sorta di sogno apocalittico, abitato da secchi, acqua e sapone, per indagare l'atto della pulizia e le sue possibili connotazioni sceniche e storiche. Ma il concetto di pulito è qualcosa di molto più ampio. Cosa deve essere effettivamente pulito? Le case, lo sporco dentro le stanze, le tracce lasciate, i fatti storici? Questa è la domanda che la coreografa si chiede, e appunto tutto prende poi la forma di queste bolle di sapone che attraverseranno la scena in una suggestiva coreografia. 19-22 ottobre per Alice Ripoll con Lava Jam al Teatro India. Ancora andremo a vedere un doppio lavoro firmato Azcona e Tolosa, Extraños Mares Arden, in prima nazionale 20-21 ottobre al Mattatoio di Testaccio, e uno spettacolo del duo iberico-sudamericano, appunto Ascona e Tolosa, che mostra come il teatro possa essere trasformato in un dispositivo capace di ribaltare le narrazioni dominanti e le immagini che l'Occidente ha prodotto per raccontare se stesso. Quindi ancora andiamo in Sud America, ancora andiamo nel neocolonialismo, nel capitalismo di Cile, Argentina e Brasile con questo lavoro, e dal 23 al 24 ottobre sempre la stessa compagnia presenta Teatro Amazonas, che è l'ultimo capitolo della trilogia Pacifico che la compagnia appunto Ascona e Tolosa ha presentato in questi anni, e si svolge, diciamo, in due dei principali siti architettonici del Brasile, il Teatro dell'Opera e lo Stadio di Manaus. Ha un taglio documentario e fortemente politico, in grado di mescolare l'indagine storica ed etnografica poi alle trasformazioni dell'Amazzonia brasiliana di oggi, nella scoperta di giacimenti e in relazione con la cultura coloniale e indigena. Questo molto interessante, andare a vedere questo lavoro. Ricordo anche poi in questo periodo che c'è ancora, probabilmente, non credo che sia conclusa, la mostra meravigliosa di un grande fotografo brasiliano che risponde al nome di Sebastião Salgado. In questo periodo a Roma, appunto, la sua grande mostra, di cui non dire molto, ma probabilmente sicuro, ecco, per andare a vedere ciò che ha fatto proprio nei villaggi dell'Amazzonia, dove c'è da raccontare molto. Io, ma lo dico internos in qualche modo, perché non riguarda il nostro teatro, però va ricordato probabilmente che l'Amazzonia produce il 50% dell'ossigeno che respiriamo nel mondo, quindi probabilmente è un bene che riguarda tutti. Lo sa Sebastião Salgado, questo suo fotodocumentario, ecco, ho ricontracciato finalmente anche l'informazione, fino al 13 febbraio 2022 al Maxi, per andare a vedere questa mostra meravigliosa, meravigliosa, assolutamente. Ultima cosa di cui parliamo, Roma Europa Festival ancora, Dante Antonelli, 21-24 ottobre, al Mattatoio ancora, Atto di Passione, è una prima assoluta, un lavoro quello di Dante Antonelli che si ispira, con il secondo per capitolo in realtà, alla produzione romanzesca di Yukio Mishima, il grande autore giapponese, suicida. Al centro di questo lavoro sono i romanzi più controversi ed erotici dell'autore giapponese, La scuola della carne, Trastulli di animali e Colori proibiti. Non è una trasposizione scenica dei romanzi, ovviamente, si tratta di una ricerca di qualità nel tirar fuori dai romanzi un po' lo spirito, l'anima di questi romanzi in una scrittura scenica che cercherà appunto di rappresentarli senza rappresentarli. Questo per quanto riguarda Roma Europa Festival. L'ultima cosa che dico è una cosa piccolina, però di uno spettacolo che ho amato molto. Si chiama L'Intruso, sarà in scena il venerdì 22 ottobre alle 18.30 allo Studio Dormino. Questo è quello, anche se Dormino, ma insomma, al Pigneto, in via Giulio Solino. Ed è uno spettacolo particolare, scritto e interpretato da Davide Tassi, e un piccolo gioiello che scoprì anni fa, mi fa piacere di rivederlo in scena, quindi invito tutti quelli che vorranno misurarsi con quello che ho appena detto, e quindi anche con la responsabilità che mi sono preso, ad andarlo a vedere venerdì 22 ottobre alle 18.30 allo Spazio Dormino al Pigneto. E questo è tutto, ciao a tutti! Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.